Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Guariali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo. La notte del Bernabeu, il presidente Pertini che fa festa in tribuna, le mani di Zoff su quella Coppa del Mondo che diventarono poi un celebre francobollo tratteggiato dall'arte di Renato Guttuso, il fumo della pipa del presidente che si intrecciava con quello dell'altra pipa per antonomasia del nostro sport, quella di Enzo Bearzot, e i tricolori che sventolavano per le strade di tutta Italia. Che follia quel luglio del 1982, l'Italia campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Partita senza alcun credito e alla fine campione dopo aver battuto Argentina, Brasile, Polonia e la Germania Ovest per 3-1 in finale. E al centro di tutto lui, un ragazzo di Prato, classe 1956, che di quel mondiale non sarà solo il capocannoniere, ma il simbolo, l'emblema, fino ad oggi e per sempre. Ebbene, quel ragazzo ha compiuto in questi giorni i suoi primi 60 anni che ha deciso di festeggiare oggi insieme a noi. Paolo Rossi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a tutti, ciao. Beh, Pablito, intanto auguri per i suoi primi 60 anni, pieni non solo di calcio, ma di tanti progetti di cui a breve parleremo. Ma si ricorda oggi il primo giorno in cui indossò gli scarpini? Oddio, ero un bambino. Dunque, da bambino generalmente si giocava, non ci avevamo le scarpe da calcio. Quando noi si giocava davvero nei prati o in oratorio, sto parlando di quando avevamo ovviamente 7-8 anni, così le scarpe da calcio non c'erano. Ho iniziato a 10 anni sostanzialmente a giocare i tornei, a giocare con delle società, e fino ad allora si giocava, anzi mia madre mi ricordo che era sempre molto arrabbiata perché finivo un paio di scarpe alla settimana e ogni settimana mi compravo un paio di scarpe, ma normali erano, non gli scarpini. Ecco, a 10 anni poi ho iniziato a giocare a calcio davvero, insomma sul serio, e allora sì, ricordo il momento in cui per la prima volta ho messo le scarpe da calcio. Tifoso della Fiorentina da bambino, vero? Da bambino sì, da bambino nel senso che andavo allo stadio, mio papà mi portava allo stadio, e quindi la Fiorentina era la mia squadra. Ho visto tutto il campionato, l'ultimo scudetto che ha vinto la Fiorentina nel 68-69, le ho viste praticamente tutte dalla curva, e avevo 13 anni io. Però me le ricordo benissimo, insomma, quindi in gioventù sì, ho sempre fatto il tifo per la Fiorentina. Entra nei ragazzi della Juventus, ma esplode come bomber trascinando il Vicenza di GB Fabbri in Serie A. Non c'è dubbio, GB Fabbri è stato per me fondamentale, è quello che mi ha cambiato di ruolo, per quello che ha intuito per primo le mie caratteristiche. Lui vedeva in me un giocatore da centroattacco, e l'ha capito probabilmente in breve tempo, tant'è che dopo un mese che ci siamo incontrati, lui dalla destra che ero fino a quell'età, insomma fino a 20 anni, tra l'altro ho fatto tutta la trafila delle nazionali, nazionale juniore, Under 21, sempre giocando alla destra, e lui mi disse: no, tu devi giocare all'attacco, tu hai le caratteristiche per giocare davanti, centroattacco, perché sei bravo, sei svelto, sei opportunista, sei questo, cioè... E in effetti fu così, insomma, lui mi cambiò di ruolo e fu, diciamo, la svolta nella mia carriera. E il primo incontro con Enzo Bearzot, se lo ricorda? Con Bearzot, dunque, il mio esordio è stato contro il Belgio a Liegi, con la nazionale A stiamo parlando naturalmente, e da lì non dico che sia stato amore a prima vista, però insomma poi ci siamo legati sostanzialmente per 10 anni l'uno all'altro in maniera quasi indissolubile, direi, perché possiamo dire tranquillamente che lui ha fatto la mia fortuna, perché senza di lui forse non avrei davvero ottenuto grandi risultati. E poi alla fine invece anche lui, senza di me, probabilmente non sarebbe arrivato a vincere quello che ha vinto. Quindi davvero siamo rimasti legati l'uno all'altro in questo modo. Eccolo il pallone di Gentile. Cabrini, Bettega. Palo. Ed è gol. Ed è gol. Ha segnato Rossi. E ai mondiali del 1978 in Argentina, vinti dai padroni di casa ma con gli azzurri di Berzot, che incantano e chiudono al quarto posto, che nasce la leggenda, il mito di Pablito. Ecco, forse quel mondiale avremmo potuto anche vincerlo, eh? Io guarda, non ho nella mia carriera credo di non avere tanti, rimorso e rammarico di poter fare qualcosa di più, ma in Argentina qualcosa mi è rimasto a me. Io, rileggendo un po' la mia carriera, rivedendo quel mondiale, probabilmente qualcosa in più si poteva anche fare, però poi alla fine mi sono sempre detto probabilmente non c'era quella convinzione durata poi nel corso di qualche anno che è sfociata poi nella vittoria dell'82. Nel 78 forse ci siamo accontentati, e quando ti accontenti alla fine non riesci ad arrivare sul tetto del mondo. Prima di arrivare in Spagna però, e anzi a rendere ancora più epica la sua resurrezione spagnola, c'è l'amara squalifica per il calcio scommesse nel 1980. Non c'è alcun dubbio, la vicenda è una vicenda davvero incredibile, assurda, nella quale sono rimasto coinvolto per un contatto di un minuto. Su di me non c'era assolutamente nessuna prova, non c'era giro di denaro, di soldi, non c'era niente, solo la parola di uno che diceva sì, anche lui forse era d'accordo. Cioè, sulla base di questo io mi sono preso 2 anni di squalifica, è una cosa incredibile, ho fatto fatica a spiegarlo al mondo intero, alla gente, a casa, ai miei, a tutti, che non c'era assolutamente niente, che avevo solo avuto questo contatto di... E poi tra l'altro questo ha ritrattato poi un po' di anni dopo dicendo che era vero, che non aveva mai avuto nessun accordo con me. Insomma, fatto sta che mi sono perso 2 anni di squalifica dai 24 ai 26 anni, proprio nel pieno della mia carriera. La squalifica scade giusto alla vigilia dei mondiali. Lei fa in tempo a tornare per qualche partita, con qualche gol nella Juventus, ma Berzot, pur contro ogni logica e ogni critica, la convoca per la spedizione mondiale. Non c'è alcun dubbio che sia andata proprio così. Io ho sempre avuto davvero la fiducia di Berzot, me l'ha sempre sentita, tant'è che nel periodo della squalifica lui mi chiamava abbastanza spesso, mi diceva stai tranquillo, allenati bene, preparati, che poi perché lui aveva senz'altro fiducia, sapeva quello che in qualche modo quello che era il mio valore, l'avevo dimostrato in Argentina nel 78, quindi lui pensava davvero che in qualche modo io gli potessi essere davvero utile, e quindi la sua fiducia non me la sono mai sentita mancare. In Spagna poi dopo un inizio difficile arriva la sfida del 5 luglio 1982 al Sarriá di Barcellona contro il Brasile, la sua leggendaria tripletta. L'inizio di quel mondiale è stato davvero difficile, proprio perché arrivavo da 2 anni di stop senza aver mai giocato partite vere, ho fatto molta fatica a riprendere proprio da un punto di vista mentale, di testa, non tanto fisicamente quanto proprio di testa, rientrare nelle partite vere, e fortuna ha voluto che proprio nel momento clou della partita forse più importante della mia carriera, qualcuno lassù mi ama davvero, perché sono passato da una situazione di disastrosa a diventare nel blocco di poco tempo uno dei giocatori più conosciuti al mondo, quindi capocannoniere, vittoria al mondiale, questo nell'arco di 15 giorni è da davvero dell'incredibile, questo forse per la perseveranza, senza forse, soprattutto per la perseveranza, la testardaggine di Berzot, senza di lui davvero non ci sarei arrivato a vincere un mondiale. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! 5° minuto, Italia 1, Brasile 0. Rossi, Rossi! E ancora l'Italia in vantaggio! Errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Di nuovo Rossi, di Rossi l'ultima deviazione, tripletta di Rossi. Che emozioni, ragazzi. Prendiamoci una breve pausa, poi ancora insieme con Paolo Rossi qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Eravamo 34, adesso non ci siamo più. E seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Ben ritrovati qui a Olimpia, ancora con Paolo Rossi, il leggendario Pablito, che ha deciso di celebrare anche insieme a noi i suoi primi 60 anni appena compiuti. Abbiamo rivissuto i grandi momenti in azzurro, ai mondiali di Argentina e Spagna. Più malinconico fu invece l'ultima esperienza in azzurro, vero signor Rossi, nei deludenti mondiali di Messico 86. Devo dire che quel mondiale lì sapevo già di non essere all'altezza, di non poter dare il mio contributo. Ho fatto parte della rosa di 22, ho partecipato ma senza mai neanche andare una volta in panchina, quindi ho fatto parte della spedizione, ma è stato un mondiale non mondiale, ed era difficile onestamente ripetersi dopo il mondiale dell'82 trovare adeguati sostituti. La mia era una carriera oramai in discesa, stavo per terminarla, tant'è che un anno dopo io ho finito, insomma, non ho più giocato, ho finito la carriera, sentivo insomma di essere agli sgoccioli, anche se la mia carriera è stata molto breve, perché mi sono giocato tutto in 8-9 anni, e quindi a 30 anni poi ho dovuto smettere per problemi fisici. Però insomma quel mondiale non è che sia andato poi benissimo, anche, e non c'erano naturalmente neanche le premesse, perché ripeto, dopo il mondiale dell'82 sarebbe stato davvero molto ma molto difficile. Prima di Messico 86 c'era stata la notte più amara, quella Coppa Campioni vinta nella notte di sangue alla Isella. Quella è stata una delle pagine più tristi, diciamo, anche lì una tragedia che ha dell'assurdo, perché morire per delle cose incredibili, per tutta una serie di manchevolezze, per la situazione, la location, lo stadio inadatto, per il fatto che non ci fosse la polizia, insomma hanno perso la vita 39 persone per una partita di calcio, per un evento sportivo. Io lo trovo veramente una cosa assolutamente inquietante, assurda. Mi auguro in qualche modo che quell'episodio sia servito a migliorare le situazioni, a far sì che tante cose non succedano più. In parte questo è vero, però insomma è una pagina senz'altro triste della stupidità umana. Ricordi, vittorie, sconfitte, emozioni che Paolo Rossi porta con sé tagliando il traguardo dei 60 anni. Ecco, con quale spirito ci arriva, signor Rossi, a questa scadenza comunque così emblematica? Ma sinceramente non si capisce quando, perché è tutto nuovo, no? La vita è tutto un divenire, sono cose che non ci siamo, nessuno ci è mai arrivato, cioè sono tutte cose che si scoprono strada facendo, gli anni, l'età, si cambia tante cose, ma non lo so, io non vorrei fare un consuntivo della mia vita, nel senso che siccome ho ancora tantissime cose da fare e tanti progetti, non vorrei fermarmi, e quindi di solito no, quando si arriva, si fanno delle tappe importanti nella propria vita, si dice ma cosa abbiamo combinato di buono o di cattivo anche, no, io mi piace pensare, proseguire e vedere quello che c'ho. Certo, il mio nome è legato in maniera indissolubile a un evento talmente storico come il Mondiale dell'82, che ogni tanto mi viene naturale voltarmi indietro, ma non perché lo voglia fare io, perché è la gente che in qualche modo mi costringe, quelli che mi fermano, che mi salutano, che mi ringraziano ancora oggi. Ecco, secondo lei c'è oggi un nuovo Paolo Rossi nel nostro calcio? Ma onestamente no, in quelli di adesso no, non mi sembra ci sia uno con le mie caratteristiche. A me è sempre piaciuto Pepito Rossi, mi piaceva da ragazzino, l'avevo visto giocare le prime volte a Parma e mi ero detto, caspita che bravo questo ragazzo, veramente ha delle grandi qualità, farà una grande carriera. Poi l'ha fatta in parte perché è stato, devo dire, ha avuto sfortuna, ha avuto un sacco di infortuni anche estremamente seri che ne hanno un po' pregiudicato la carriera. Però aveva tutto per diventare un grande calciatore, spero che oggi sia recuperato perché aveva caratteristiche abbastanza simili alle mie. E le chiedo, Enzo Berzot, ecco, troverebbe ancora spazio nel football di oggi? Ma Berzot è stato uno dei più grandi allenatori che abbiamo avuto in Italia. Era un tecnico davvero straordinario, una persona rigorosa, tutto d'un pezzo, era un friulano di quelli molto duri anche, era uno che il calcio lui lo amava sotto tutti i profili, era un tecnico che spiegava sapientemente le partite, una persona davvero di cuore, pronto a difenderti sempre in qualsiasi modo. Lui ha voluto bene a tutti i suoi giocatori indistintamente e insomma, la sua carriera di allenatore nazionale dimostra senza alcun dubbio la sua bravura. Adesso guardiamo un po' al futuro, perché Pablito, oltre al campione che è stato, è oggi tante altre cose, giusto? sì, mi sono... Poi una volta terminata la carriera ho fatto anche tante altre cose che non riguardassero il calcio. Adesso c'ho un agriturismo, c'ho un'academy soprattutto di calcio, c'ho una scuola calcio a Perugia dove ho tutti i ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo, e quello è un progetto a cui tengo molto, sono molto affezionato, conto di svilupparlo perché questo mi tiene vicino al calcio. Insegnare ai ragazzi è la cosa più importante e più bella. Da quel che so, il mito di Pablito è diventato anche una mostra. Sì, è un progetto anche di domani, perché è nata un po' così per scherzo da alcuni amici galleristi che mi hanno invitato a fare una mostra nel Chianti, a Gaiola in Chianti. Dopodiché questa mostra è piaciuta talmente tanto che ci è stata richiesta un po' ovunque. Adesso siamo alla terza tappa, ma ne avremo. Adesso siamo a Sirmione fino al 9 di ottobre e poi andremo in tante altre città, andremo anche all'est, a Monte Carlo, a Bruxelles, a Vicenza, a Prato. Insomma, abbiamo un sacco di date e devo dire sono estremamente orgoglioso di questa cosa, perché insomma è una mostra che ripercorre un po' non solo la mia carriera, ma un po' quelli che sono stati anche gli anni Ottanta, anche da un punto di vista economico e sociale. E in arrivo c'è anche un film, vero? Sì, quello è un progetto in embrione, ci è stato chiesto, davvero ancora se ne deve parlare, sono felice insomma. Fra l'altro su idea, un po' sulla falsa riga del libro che ha scritto mia moglie 1982, il mio mitico mondiale, un regista ha letto il libro e gli è piaciuto così tanto come trama, che poi non è una trama, è la vita, che è quello che mi è accaduto a me, è quello che è successo, che è davvero un film. E quindi ha pensato bene di chiamarmi e dire: ma questo andrebbe raccontato in un film. Adesso ne stiamo parlando, ma mi auguro che nell'arco di un paio d'anni si possa realizzare. Ci confessi adesso, Pablito, che vino aprirà stasera per festeggiare in famiglia? Ma dunque, dire col mio sarebbe troppo banale, che è un buon vino, ma non è sicuramente un vino di quelli che a noi ci invidia un po' tutto il mondo. Io, siccome sto in Toscana, dovrei dire davvero festeggiamo con un bel Brunello di Montalcino, ma poi ne potremmo tirar fuori tanti altri, dai nostri grandi vini, dai Baroli e Barbaresco, insomma ne abbiamo tanti, insomma dobbiamo essere fieri della nostra vinicoltura in Italia, perché produciamo davvero dell'ottimo vino. Beh, ecco, però insomma i 60 anni meritano anche più di una bottiglia, non ponga limiti, mi raccomando. Assolutamente no. Paolo Rossi, allora intanto tanti auguri e grazie davvero per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, un abbraccio a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.